America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. Donald Trump, ricorderete le sue minacce, fire and fury, fuoco e furia contro la Corea del Nord. La minaccia di Donald Trump è rimasta invariata, anche se i suoi generali da una parte, il segretario di Stato Rex Tillerson dall'altra, hanno cercato, come dire, di calmare un pochino le acque, di far capire che potrebbe esserci una soluzione diplomatica. Qualcuno addirittura suggerisce che Trump possa nominare l'ex presidente Jimmy Carter come inviato speciale per la Corea del Nord per trovare una qualche soluzione. Ma la notizia che ieri così girava un po' per tutte le agenzie, per i media americani, è che l'aviazione militare degli Stati Uniti d'America sta per diramare un'allerta ai propri bombardieri nucleari B-52 perché siano pronti ad agire, se necessario, anche in 24 ore. Secondo me vuole essere così una preparazione del terreno per questo viaggio asiatico a cui Donald Trump si sta preparando. Partirà ai primi di novembre, resterà una decina di giorni, visiterà la Corea del Sud, il Giappone, la Cina, insomma un viaggio a tutto campo, il Vietnam dove si terrà il vertice APEC, e dunque in qualche modo l'America di Trump e Trump stesso vuol forse far sentire un pochino i muscoli. D'altra parte, proprio per uno che in genere ama la provocazione, Donald Trump ha annunciato quello che per lui è un importante passo indietro, cioè non andrà al 38esimo parallelo. Io sono stato al 38esimo parallelo, che è la linea di demarcazione su cui si è costruita la tregua, perché bisogna ricordarselo, la guerra di Corea non si è conclusa con un trattato di pace, ma con una tregua, con un armistizio, e per cui ci si è fermati al 38esimo parallelo. Da una parte della zona demilitarizzata, che poi è piuttosto piccola, ci sono i sudcoreani e gli americani, dall'altra, poche decine di metri, 50-100 metri, ci sono i nordcoreani. Però Trump è stato consigliato di non andare proprio per non fare la figura di quello che vuole provocare in continuazione. Ecco, ma di questo ne parleremo in modo più approfondito nei prossimi giorni e soprattutto alla vigilia di questo viaggio, perché insomma la missione asiatica di Donald Trump è una delle svolte importanti di politica estera per la sua amministrazione. Oggi vorrei restare, ve l'avevo anticipato ieri, invece su una questione interna, sulla grande riforma fiscale che dovrebbe concludersi qui negli Stati Uniti d'America. Sentiamo Donald Trump. I call it tax cuts. It is tax reform also, but I call it tax cuts. It'll be the biggest cuts ever in the history of this country. And ecco, Donald Trump conferma, sarà la più grande riforma fiscale degli Stati Uniti, nella storia degli Stati Uniti. Gli americani non vedono l'ora di vedere questo risultato. E c'è però un dibattito piuttosto intenso attorno alla riforma fiscale, perché ci sono 3, 4, forse 5 addirittura parti, ma vediamo quelle più importanti. Da una parte Donald Trump, che ha fatto certe promesse e vuole rispettare queste promesse nei confronti dell'elettorato, e cioè tagliare le tasse, costi quello che costi. Dall'altra c'è la parte istituzionale, non si possono tagliare le tasse costi quello che costi, perché bisogna che siano compensate o da altri introiti o da perdita di vantaggi fiscali su altri fronti. Dall'altra parte ancora ci sono i democratici, che vorrebbero sì anche loro una riforma fiscale con dei tagli delle aliquote, ma vorrebbero questi tagli solo per i più poveri, vorrebbero invece degli aumenti delle aliquote per i più ricchi e vorrebbero che molti dei programmi sociali fossero mantenuti. Ecco, su questo si è già scatenato un dibattito politico, perché la riforma sanitaria, ricorderete, di cui abbiamo parlato molto a lungo, doveva servire come cavallo di Troia per poter recuperare circa 1.000 miliardi di dollari da destinare poi ai tagli fiscali. Ecco, questa riforma non c'è stata e dunque questi quattrini vanno recuperati da qualche altra parte. Cosa si erano inventati i repubblicani? Una modifica di molte delle deduzioni fiscali che attualmente sono consentite dalla legge americana. per esempio una diminuzione delle deduzioni sugli interessi pagati sui mutui per le case, cosa che però ucciderebbe il mercato immobiliare. E l'ultima che si erano inventati era una riduzione delle deduzioni concesse per il 401k, 401k. Che cos'è il 401k? E chiamiamolo una sorta di TFR, tanto per capirci, è un progetto e un piano di risparmio che gli americani possono utilizzare, d'accordo con l'azienda e con il fisco, che gli consente di risparmiare dei soldi. Cioè, oggi gli americani, i dipendenti di un'azienda, possono dedurre e investire fino a $18,000 dal loro reddito annuale, questa è la cifra massima per il 2017. Su questi $18,000 non si pagheranno tasse perché vengono appunto dedotti dal reddito e destinati a un risparmio, anzi a un fondo che poi sarà investito, appunto questo 401k che in genere è un piano di investimento. Molto spesso l'azienda, per incoraggiare il lavoratore al risparmio, fa il cosiddetto matching fund, cioè contribuisce a sua volta con dei fondi aggiuntivi sempre esentasse, in alcuni casi arrivando a raddoppiare quello che il lavoratore ha contribuito. Per cui se il lavoratore contribuisce $18,000, quindi il massimo, l'azienda può arrivare a contribuire a sua volta $18,000. Quindi questo diventa un risparmio non da poco, $36,000 in un anno, che vengono investiti in un piano di risparmio. Ecco, in questo contesto Trump ieri che cosa ha detto? Non toccheremo i vostri 401k, non potremo in alcun modo andare a violare il modello di risparmio che riguarda milioni di americani e che sarebbe dannosissimo per la classe media. Ecco, non è chiaro se si era già messo d'accordo con i repubblicani o no. Di sicuro i repubblicani hanno reagito un po' a sorpresa. Però ormai Trump l'ha detto, il negoziato è partito e dunque vedremo anche come andrà a finire questo negoziato particolare fra Casa Bianca e repubblicani al Congresso. Con detto questo, il dibattito avanza in più direzioni. Come vi dicevo, Donald Trump ha promesso nella sua ultima versione una riduzione delle aliquote in tre scaglioni, 10%, 25%, 35% aliquota massima da pagare. Attenzione, aliquota massima federale, perché nel caso di New York, anche con il 35%, New York intendo New York State, c'è poi da pagare la tassa statale e la tassa cittadina, e parliamo grosso modo di un altro 15-20%, per cui anche se si scende al 35%, poi l'aliquota sul reddito, a parte le deduzioni, può arrivare anche al 55%. Dunque, in realtà, tasse ridotte sì, ma non credo che sarà, come promette Donald Trump, il più grande taglio fiscale nella storia degli Stati Uniti, perché quello l'ha fatto già Ronald Reagan. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, il tema è tasse, ne parleremo ancora nei prossimi giorni, ma di Johnny Cash, After Taxes. I feel so good, come payday. I think of all the things I'm gonna buy when I pick up my pay, don't you know? But then they hand me that little brown envelope. I peep inside, Lord, I lose all hope. 'Cause from those total wages earned down to that net amount that's due, I feel a painful sense of loss between the two. Federal tax. There goes that bracelet for her arm. County tax. There goes that new fence for my farm. State income tax. There goes that brand new Pontiac. Withholding tax. There goes the shirt right off my back. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.